Posso cominciare? Certo, certo. Ok, allora innanzitutto stiamo parlando di una situazione abbastanza grave. Parliamo di un centro di educazione motoria che si trova in via Ramazzini, zona Portuense, su una traversa di via Portuense. È un centro che da anni ospita dei ragazzi disabili al 90%, quindi insomma dal 90 in su, quindi insomma, non stiamo parlando di persone che hanno diciamo possibilità di autogestirsi, assolutamente hanno bisogno di un controllo medico 24 ore su 24. La maggior parte dei ragazzi ha delle oltre ad essere disabili, hanno delle gravi malattie, insomma, delle febbri. Anche durante la notte possono presentarci febbri cerebrali, insomma è una situazione abbastanza delicata. Allora, questo centro appunto si occupa di tenere i ragazzi da parecchi anni, ci sono all'interno più di una cinquantina di ragazzi disabili e più di una settantina di operatori e quindi di lavoratori che ovviamente qualora dovesse chiudere questo centro ovviamente rischiano il posto di lavoro, tranne quelli che ovviamente hanno diciamo altri tipi di contratti, magari riescono a essere spostati o sistemati altrove. Questo diciamo è un contesto diciamo abbastanza frequente nell'ambito della sanità, soprattutto al giorno d'oggi lo sappiamo tutti come stanno le cose, però diciamo e quindi non è assurdo che succedano queste cose secondo diciamo il periodo che stiamo vivendo, però diciamo che questa è una situazione abbastanza grave perché come ho già detto in passato al compagno la questione è molto grave perché mandare in strada questi ragazzi equivarrebbe a mandare per strada dei bambini neonati, quindi dei bambini neonati che non sono neonati, quindi immaginiamo sono come dei bambini neonati che però non hanno diciamo la capacità di nessun tipo di prendere nessuna scelta, non si muovono, molti non riescono nemmeno a camminare, stanno sulle carrozzine, quindi una situazione veramente grave. Allora la questione è scaturita dall'avviso da parte della Croce Rossa Italiana di voler chiudere questo centro entro il 31 dicembre. Questo centro ospita da anni questi ragazzi e nessuno aveva mai messo in ipotesi il fatto che potesse essere chiuso. Poi la Croce Rossa è stata commissariata, abbiamo avuto appunto il commissariamento da parte del nostro caro avvocato Rocca, si chiama così, è il commissario speciale della Croce Rossa Italiana, che ha detto nell'assemblea con tutti i genitori e gli operatori di non voler chiudere il centro, ha cercato di rassicurare un po' la cosa. Quindi ha fatto un discorso abbastanza assai strano, no? Del tipo non vi preoccupate, il centro noi non lo vogliamo chiudere, però non abbiamo intenzione di spenderci un soldo in più. E questo equivale al chiudiamo il centro, perché i fondi che la regione dovrebbe dare alla Croce Rossa per mantenere in piedi questa struttura sanitaria, che ovviamente oltre ad essere il centro dei disabili anche l'ASL è un poliambulatorio e quindi diciamo ospita molti lavoratori e molti ragazzi disabili, è anche un ASL di quartiere, quindi dice noi non vogliamo chiuderlo, però i soldi non ci sono e quindi la regione non ce ne manda altri finché non ci sta un tavolo di trattativa per risolvere la questione a livello economico. Noi diciamo non possiamo garantire la continuità di questa struttura. E io insomma noi abbiamo fatto varie iniziative, io sono un parente, ho mia zia che è disabile al 90%, insomma, quindi sono un parente direttamente coinvolto in questo e quindi mi sono diciamo mobilitato anch'io, ho partecipato all'assemblea che c'è stata dopo il corteo del 15, il 15 novembre c'è stato un corteo con blocco della Portuense, di via Portuense c'è stato fatto il blocco e poi siamo stati sotto la regione il giorno che vi ho chiamati. Siamo stati sotto la regione per diciamo, dare un po' di fastidio e per diciamo, mandare un messaggio ben chiaro. I ragazzi, quella è la loro casa, non se ne vanno, non permetteremo che il centro venga chiuso perché quella è la casa dei ragazzi e non possono assolutamente mandarli via e soprattutto poi quindi per la tutela sia della, diciamo, della salute dei ragazzi che per la tutela del lavoro di tutti gli operatori sanitari che stanno all'interno e che quindi rischierebbero il posto di lavoro. E quindi niente, la protesta si è svolta sotto la regione, è stato veramente vergognoso vedere come quei pochi, quel manipolo di sbirri della regione, diciamo quelli della sicurezza della regione hanno chiuso la porta, hanno chiuso la porta come a sfregio, come a dirci la regione non vi accoglie a buone, ma cioè, stiamo parlando di ragazzi e di genitori, non stiamo parlando assolutamente di una manifestazione che poteva avere, diciamo, qualcosa di troppo forte per le loro fragili personalità burocratiche, cioè, quindi stiamo parlando di una manifestazione dei genitori, hanno chiuso la porta, quindi dopodiché, visto che il signor Bondi non voleva, perché i genitori ovviamente volevano dare fastidio e quindi mobilitare un po' tutto, volevano far scendere Bondi, volevano attrarre un po' l'attenzione, visto che a un certo punto non si riusciva ad ottenere nulla, hanno mandato un servo giù, hanno mandato questo servetto a dire: ragazzi, non vi preoccupate, il signor Bondi sta lavorando per voi. Ma ovviamente questo non è una risposta che può, diciamo, che poteva essere sufficiente, quindi subito dopo c'è stato il blocco della Cristoforo Colombo per qualche minuto, che però è durato poco, perché immagina che siamo passati, era un blocco, diciamo, formato dai ragazzi disabili insieme ai genitori, agli operatori, gente comunque anche di una certa età, però grazie a questo blocco della Colombo, penso anche grazie comunque agli strilli, ai fischi e tutto quanto, siamo riusciti a far scendere il signor Bondi, per la gioia di tutti quei genitori che pensano che questo serva a qualcosa, con la sua voce roca e burocratica ha detto: non vi preoccupate. Quindi la risposta di tutto questo, dopo una mobilitazione che abbiamo portato quindi anche i ragazzi dal centro fino alla Cristoforo Colombo, ci hanno detto: è sceso Bondi e ha fatto il segno della croce, quasi, no? Tanto come un prete, ha detto: non vi preoccupate, siete tra le nostre priorità, arrivederci. Questa è stata la risposta breve che è stata data ai genitori, quindi ai familiari di questi ragazzi, però la situazione purtroppo non è assolutamente tranquilla, in quanto sappiamo bene che le parole contano poco, in quanto quando si tratta di soldi che non ci sono, non penso che a loro gliene possa fregare qualcosa se i ragazzi vengono rimandati dai propri genitori, che tra l'altro vivono anche i familiari vivono una situazione economica abbastanza particolare. Io, per dirti, mia nonna, che è appunto la madre di questa mia zia che è disabile, non ha la pensione che gli permette, cioè non ha mezzi economici che gli permetterebbero di spostare la mia zia in un centro privato, dove non ti passano nulla, dovrebbero pagare più di 2.000 euro al mese per tenere questa ragazza, quindi, diciamo, è una situazione molto difficile, perché la maggior parte dei genitori non possono assolutamente farsi carico da soli, quindi sono completamente da soli e non possono, perché molti di loro sono anziani, molti di loro hanno delle complicazioni economiche, cioè nessuno ce la fa, cioè stiamo parlando di ragazzi che hanno problemi veramente gravi, cioè di ragazzi che hanno bisogno di un controllo 24 ore su 24 che solo una struttura che è appunto attrezzata per tale scopo può garantire. Dal momento che non hanno dato queste risposte, fa il signor Rocca al discorso con i genitori nell'aula azzurra che si trova appunto all'interno del poliambulatorio, quindi del centro di educazione motoria, disse: non vi fidate di quello che vi sto dicendo, come a smentire tutto quello che aveva detto, dice: no, non lo vogliamo chiudere il centro, però non vi fidate neanche di quello che vi dico lì, di quello che vi dico io, proprio come a dire: io me ne lavo le mani come Ponzio Pilato, insomma, però visto che sono io, diciamo, il rappresentante, per tranquillizzarvi vi dico, cioè, come dire, stiamo lavorando per voi, però niente, rimanete sull'attenti. E tu puoi immaginare dei signori anziani, dei ragazzi che stanno in attesa di sapere se possono continuare ad avere, diciamo, a essere tutelati nella loro salute, e quindi anche i lavoratori di poter continuare il loro lavoro tranquillamente, o quindi siamo in attesa se questi baroni, questi grandi tecnici, questi grandi pezzi di merda, scusate il termine, perché qui si tratta di vite umane, stiamo parlando di persone che non stiamo parlando di gente che è normale, che comunque si dà da fare e riesce, no, stiamo parlando di bambini, è come stiamo parlando di bambini, quindi è come chiudere un orfanotrofio e dire: adesso i ragazzi se la vedono per cavoli loro, e quelli che fanno? E in questo caso manco, perché stiamo parlando di persone che non si muovono, che non hanno capacità di motoria, non hanno capacità motoria, sono meno mati, cioè non hanno capacità nemmeno di difendersi, capito? Cioè è una questione molto molto delicata, cioè come mandare per strada, ripeto, dei bambini neonati che hanno delle complicanze fisiche, hanno dei problemi veramente veramente gravi. cioè veramente gravi. Ogni due per tre noi siamo dovuti andare al centro perché mia zia o anche altri ragazzi, magari i genitori vengono chiamati continuamente perché stanno male, cioè sono comunque dei ragazzi disabili che hanno comunque delle crisi epilettiche, delle febbri cerebrali, hanno bisogno quindi in poche parole di un controllo che solo un centro attrezzato può dare, e che quindi questi centri attrezzati privati costano l'ira di Dio, e la maggior parte di queste famiglie non ha assolutamente la capacità di arrivare a fine mese, figuriamoci di trovarsi in una situazione dove devono pagare un privato per assicurare la salute dei propri figli. E tenerseli a casa che vuol dire? Vuol dire che sì, te li tieni a casa, ma ci rendiamo conto che vuol dire che comunque sono soldi che non bastano per mantenere la situazione stabile all'interno di una famiglia che ha un disabile, perché il disabile non è un ex articolo 26, loro vogliono calcolare il centro come un ex articolo 26, da quello che ho capito, che comunque comprendeva invalidi, cioè disabili gravi e disabili non gravi. In questo caso invece non possiamo parlare di un ex articolo 26, qui stiamo parlando di un centro che ha solo disabili gravissimi. Quindi grave, che non hanno proprio possibilità di recuperarsi, quindi danno persone che nascono, crescono e se ne vanno in questo modo. E quindi hanno bisogno di un controllo 24H. Sappiamo già come funzionano queste cose, sappiamo già che la sanità pubblica ormai sta venendo smantellata insieme a tutti quanti gli altri beni comuni, però purtroppo non possiamo stare fermi a guardare, dobbiamo comunque mobilitarci di quartiere in quartiere. Dobbiamo riuscire a essere presenti come in senso molto molto, come dire, tranquillo, come cittadini, diciamola come cittadini, se proprio vogliamo sentirci cittadini di non so che cosa, perché comunque vabbè, ma questo è, diciamo, un altro discorso. Come persone bisogna iniziare a essere, cioè bisogna essere vigili, e non bisogna mai lasciare che questi si facciano i piani senza avere qualcuno che gli dà fastidio. E bisogna continuare a dare fastidio e a lottare. Ora, io non ho aggiornamenti di nuove iniziative per sostenere questi ragazzi e le loro famiglie, e quindi anche gli operatori di questo centro. Vi posso dire che tranquillamente che il centro si trova in via Ramazzini 31, se non sbaglio, il numero, che sta appunto in una traversa di Via Portuense. Io farò sapere tramite Radio Onda Rossa le varie mobilitazioni, tutto il resto, quello che ci sarà, e spero che appunto chiunque voglia venire a dare il proprio sostegno personalmente, ovviamente ben accetto, troverà una situazione dove un po' difficile, però dove serve comunque il supporto di tutti, perché stiamo parlando di una cosa che può comunque, cioè che interessa tutti quanti. Stiamo parlando di non soltanto di questo centro di ragazzi, che è la cosa più grave in assoluto, perché come ripeto, cioè stiamo parlando di ragazzi che hanno bisogno di un'assistenza medica 24 ore su 24, stiamo parlando di un intero sistema che sta andando a puttane, e che quindi noi come cittadini, per evitare di finire come carne da macello così senza aver nemmeno dato un po' fastidio, dobbiamo assolutamente essere vigili e fare tutto il possibile per creare una controoffensiva a questi attacchi da parte della borghesia. Io parlo ancora per questi termini nei confronti dei beni comuni, cioè dobbiamo essere vigili e non mollare, e soprattutto dare molto molto fastidio. Mi pare superfluo aggiungere qualsiasi altra cosa, insomma, poi più o meno chi più chi meno ha una conoscenza di queste tematiche, insomma, sono sulla pelle di tutte e tutti noi. Prima di andare in collegamento con te parlavamo di vicende relative alle malate e ai malati di SLA, insomma, sì, diciamo. E poi insomma situazioni come questa purtroppo ne arrivano quasi quotidianamente, per cui ben venga insomma la mobilitazione, ben venga la protesta, perché è l'unico modo per cercare di salvare il salvabile. Il bello di questa protesta è anche il fatto che comunque non è una cosa inquadrata, per dire, anche un'altra cosa importante. E io ho avuto il dispiacere di parlare con un militante della Milizia Cristica, io ho detto, vi rendete conto che stiamo abbiamo addirittura queste sigle che si insinuano tra questi ambienti, la milizia Cristi, diamo il sostegno con gli striscioni di qua e di là. La risposta è una per tutti quanti, per tutte quante le organizzazioni che siano di destra o di sinistra. Ovviamente a me come compagno mi darebbe molto fastidio avere certe formazioni che hanno sempre sostenuto un sistema di un certo tipo tra le nostre, diciamo, tra le nostre fila, in quanto comunque sarebbero delle contraddizioni, e quindi insomma, però se chiunque voglia venire deve venire in maniera personale e dare il contributo, se vuole venire viene a dare il contributo, non troverà di certo simboli politici o cose del genere. Si tratta di una mobilitazione, diciamo, cittadina, di tutti i cittadini sensibili a questo, aperta a tutti i cittadini, e stiamo parlando del CEM, del centro, quindi del poliambulatorio e del centro di educazione motoria di Viera Mazzini. Però quello che vogliamo dire ovviamente è che ci serve il supporto di tutti, chiunque abbia una situazione simile nella propria famiglia ed è sensibile a questo argomento e vuole dare il proprio contributo, venga, non ci sono problemi, anzi noi speriamo che questa lotta possa, diciamo, essere dare un impatto forte anche a questi, diciamo, a questi signori che stanno seduti sulle poltrone nei palazzi del potere. Vogliamo dare fastidio, vogliamo continuare a dare fastidio, e vogliamo risposte, e vogliamo risultati. A noi le chiacchiere, per noi le chiacchiere stanno a zero, che vengano da qualsiasi parte. Sono venuti quelli del PD, sono venuti quelli di qua, sono venuti quelli di là. Qui non c'è questione, questa non è una questione di partito, d'organizzazione che dà il supporto. Qui è una questione proprio che riguarda tutti, che riguarda tutti quanti, che riguarda tutti. Poi ci sta ovviamente chi è più sensibile e chi meno. Si sa che alcune aree politiche sono un po' più sensibili, e questa non è una che all'interno di questo tipo di lotta non si trovano inquadrati, non è che si viene là e si vedono bandiere di qualsivoglia partito, organizzazione, no, è proprio una protesta che deve scaturire da dentro, che deve scaturire, è una questione proprio non solo politica ma anche morale. Cioè, chiunque sa chiunque è sensibile a determinate situazioni viene a dare il proprio contributo. Però comunque io voglio ribadire che mettere il cappello, come hanno provato a fare quelli della Milizia Cristi, che poi non sono nessuno, perché i Milizia Cristi non sono nessuno, come il loro movimento ultracattolico di questi qua, non sono nessuno. Io gli ho risposto tranquillamente, ho detto: guarda, mi rimane un po' difficile parlare con te, in quanto io sono completamente dalla parte opposta della barricata, quindi mi sta dando anche fastidio la discussione, perché io non sono un democratico che parla con tutti, se no mi scrivevo al PD. Però il discorso è questo, e chi vuole venire a dare il proprio contributo, non, diciamo, non c'è nessun problema, anzi, venite in massa. Io poi tramite Radio Onda Rossa, se mi verrà permesso, continuerò a fornire magari delle date di mobilitazione o di assemblee per tutti quelli che vorranno venire, e magari appunto tramite Radio Onda Rossa vi farò sapere questi appuntamenti, e spero appunto che tutti quelli che diciamo non vogliono stare a casa seduti sulle poltrone davanti al televisore vengano e diano un contributo per questo, diciamo, per questo contrattacco dalla base, insomma, nei confronti di chi se la vuole comandare sulle nostre vite. Assolutamente, anche perché poi se non ci siamo noi arriva qualcun altro e si sa che i vuoti non esistono, purtroppo vengono sempre riempiti. Senti, ti ringraziamo moltissimo, ovviamente un in bocca al lupo da parte nostra, e magari ci risentiamo all'inizio della prossima settimana e vediamo un po' come evolve la situazione, sperando che sia in meglio. Di qualche altra mobilitazione vi faccio sapere, insomma, e spero in una grande partecipazione da parte di tutti quanti.